In quel tempo Gesù disse alla folla: Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato. Ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Sabato scorso abbiamo visto, sempre al capitolo 8 del Vangelo di San Luca, come il seme della parola attecchisce in diversi terreni, in modo diverso, ossia la parola quando viene accolta, se il terreno è buono, produce molto frutto, se non è buono, produce poco frutto o nessun frutto. Oggi la stessa parola viene considerata come qualcosa che produce anche luce e se noi accogliamo la parola di Dio diventiamo luminosi e la gente se ne accorge se siamo luminosi o meno. E infatti quando una persona è piena, ha veramente ricevuto la parola di Dio e l'ha interiorizzata, il suo volto, la sua espressione, il suo modo di parlare, il suo modo di fare è diverso. Allora, oggi vogliamo concentrarci sul vedere un po' come stiamo accogliendo questa parola, se questa parola sta trasformando la nostra vita e soprattutto se sta trasformando anche il nostro apparire. Sì, il nostro apparire, perché è importante anche come la gente ci vede, è molto importante. E ovviamente non dobbiamo fare apposta, perché altrimenti siamo ipocriti, di essere luminosi, ma la vera luce che nasce dall'interiorizzazione della parola si vede spontaneamente. Quando una persona veramente medita la parola di Dio, la fa sua e cerca di viverla, questo si vede anche all'esterno. Allora vediamo come ci considerano gli altri. Siamo luminosi al lavoro, le persone ci vedono diverse da loro, se abbiamo una vita spirituale, se ne accorgono. Oppure non sanno niente del nostro cammino, non se ne accorgono che siamo diversi dalle altre persone. Ecco, noi dovremmo veramente portare questa luce. Allora, vediamo come possiamo portare questa luce nel nostro ambiente, in che modo possiamo essere luce. E incominciamo a modificare anche il nostro modo esterno di presentarci. Alle volte possiamo avere una forte vita spirituale, ma ancora tanti nervosismi esteriori. Che vuol dire? Molte persone, anche se hanno una vita di preghiera, però stanno nel traffico, dicono le parolacce, perdono la pazienza, trattano male le persone, dicono improperi, rimproveri molto bruschi. Oppure non danno le informazioni in maniera corretta, al lavoro non, magari sotterfugi, oppure si cerca di lavorare quanto meno si può e guadagnare quanto più si può, si cerca piccoli imbrogli, piccoli raggiri. Ecco, oggi vogliamo cercare di essere veramente luminosi e luminosi non solo interiormente ma anche esteriormente. Sicuramente se noi interiorizziamo questa parola gradatamente, la parola sicuramente albergherà anche nel nostro sguardo, nel nostro modo di trattare, però alle volte ci vuole anche una cura maggiore di come ci presentiamo, di come ci mostriamo agli altri. Quindi mettiamo particolare accento oggi sull'essere dolci, che non vuol dire essere deboli, che non vuol dire essere concilianti in maniera non sana, ma significa invece esprimere questa pace, questa serenità, questa gioia interiore che abbiamo perché siamo con il Signore e così possiamo contagiare e trasformare l'ambiente intorno a noi. Buona giornata.